Standing ovation e rose rosse per Emma Marcegaglia, designata presidente di Confindustria con un consenso pressoché unanime, oltre il 99% dei presenti in giunta. L'elezione vera e propria alla presidenza avverrà all'assemblea privata del 21 maggio, mentre l'esordio pubblico ci sarà il giorno dopo all'assemblea annuale degli industriali. Amministratore delegato dell'omonimo gruppo, leader mondiale nella trasformazione dell'acciaio, già presidente dei giovani imprenditori, la Marcegaglia succederà a Luca Cordero di Montezemolo e sarà la prima donna nella storia a guidare Confindustria. Ci metterò tutto il mio impegno, ha commentato a caldo il presidente designato. Questa per me è una giornata molto bella e molto importante. Sono molto felice e orgogliosa del consenso che mi è stato attribuito, della fiducia che mi è stata data. Sono anche ovviamente consapevole delle difficoltà, degli oneri che questa carica comporta. Prossimo appuntamento il 23 aprile, quando la Marcegaglia presenterà la squadra che l'accompagnerà nell'impegno quadriennale. Tra le novità già annunciate, una vicepresidenza dedicata alla sicurezza sul lavoro. Intervenire in questo campo è una priorità fondamentale, ha detto la Marcegaglia, ma siamo contrari alla logica delle sanzioni. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.